Risuona l'inno greco nella piana di Olimpia. Da qui parte il sacro fuoco che il 27 luglio arderà nel braciere di Londra 2012. Le Olimpiadi tornano in Europa a 8 anni dai giochi di Atene, da quell'estate in cui la Grecia fu il cuore del mondo, anche dal punto di vista sportivo. Il 4 luglio allo stadio Dalus di Lisbona contro i portoghesi padroni di casa, la nazionale greca di calcio conquista il titolo di campione d'Europa grazie a un colpo di testa di Karisteas che firma l'1-0 decisivo. Lo stupore è enorme, basti pensare che la stessa squadra allenata dal tedesco Rehagel non aveva neppure prenotato gli alberghi per la seconda fase, tanto era incerta sul suo cammino nel torneo. E un mese dopo, il 13 agosto 2004, lo Stadio Olimpico di Atene, esaltato dalle architetture dello spagnolo Calatrava, accoglie la fiamma della 28esima Olimpiade dell'era moderna. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the Olympic flame, la flamme olympique, l'Olimpiaki flora. Il sacro fuoco olimpico tornava a casa, nella terra culla dei giochi, laddove attività sportiva e democrazia, cultura fisica e consapevolezza politica erano un tutt'uno inscindibile, come ci spiega l'archeologo Alberto Benvenuti, che ci accoglie nel suo studio nella Scuola Archeologica Italiana di Atene, ai piedi dell'Acropoli. Cosa significava essere sportivi, tra virgolette, indubbiamente nell'antichità? Essere a pieno diritto cittadini. Per un greco antico, un ateniese o comunque uno spartiata, o un lacedone, un tebano, non era concepibile avere una paideia, cioè una cultura, se questa fosse distinta da quella fisica, cioè attività culturale e al tempo stesso quella fisica. Il cittadino che poteva ad esempio votare, che aveva diritti di voto o altro, era impensabile che non fosse anche un buono sportivo. Ricordo dolce amaro ora quello di quell'Olimpiade, per la Grecia di oggi, epicentro della crisi economica dell'Eurozona e dall'incerto futuro politico. Basta mezz'ora di taxi per spostarsi dal Partenone all'area che ospitò gli impianti sportivi dei giochi. Dalla finestra dell'ufficio di Spiros Capralos, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Greco, lo stadio di Calatrava si staglia all'orizzonte, simbolo di quelle Olimpiadi di cui ancora oggi Atene paga il prezzo. Un'opinione che Capralos condivide solo in parte. Per la Grecia è stato un grande sforzo, molto pesante economicamente, però non sono buttati soldi. Ognuno di noi che viviamo su questo paese utilizziamo ogni giorno tutte queste infrastrutture che non sono fatte solo per i giochi olimpici, ma sono fatte per la via quotidiana degli atenieni. Dall'altra parte sono stati anche soldi buttati via per le infrastrutture sportive. Non c'era un piano concreto di quello che faceremo con questi impianti sportivi dopo i giochi olimpici. Se i giochi hanno costato, diciamo, 8 miliardi di euro su un paese che ha dei debiti di 360, quello è come un sassolino su una montagna. Non sono i giochi olimpici responsabili per la situazione economica. Quel che è certo è che la crisi ha reso ancora più difficile il cammino dello sport ellenico verso Londra 2012. Ancora Capralos. Il più grande problema è il problema finanziario. Senz'altro il governo e lo Stato ha diminuito i soldi che dava per lo sport in generale. Questo vuol dire anche che per lo sport di alto livello i soldi sono mancati. Però per la squadra di Londra non cambia qualsiasi cosa. Ho paura che per Rio 2016 i problemi saranno grossissimi, molto più gravi di quelli che abbiamo avuto adesso. 4 ore di macchina da Atene e Olimpia, piccolo centro dell'Elide, cuore dei giochi, si apre al nostro sguardo. È la mattina della cerimonia dell'accensione di quella fiaccola che arriverà poi a Londra. Stiamo attraversando le strade di Olimpia in un giorno davvero particolare per questa piccola cittadina dell'Elide e per la Grecia tutta. La fiaccola olimpica sta per essere accesa e da pochi istanti Tsipras, Alexis Tsipras, il leader di Syriza, ha annunciato di non essere riuscito a costituire il governo ellenico, il nuovo esecutivo dopo il voto di domenica 6 maggio. La fiaccola sta per accendersi e molti studenti delle scuole di Olimpia e dei dintorni si stanno avvicinando al sito archeologico che sarà teatro di questa cerimonia. Intanto la Grecia vive uno dei suoi momenti più incerti e drammatici. Tutto questo in questo istante sembra lontano qui da Olimpia, mentre questi studenti stanno osservando dei cartelloni con la storia delle Olimpiadi, con le foto della grande storia olimpica e anche con i lavori che essi stessi hanno realizzato e che grazie ai loro professori, alle loro maestre, hanno esposto qui a pochi metri proprio dal sito in cui verrà accesa fra poco la fiaccola che poi si incamminerà verso Londra 2012. Olimpia di Olimpia. Così viene scherzosamente chiamata Olimpia Vicatu. Per anni responsabile della sovrintendenza ai beni culturali della città dove i giochi sono nati. E lei a ricordarci perché proprio qui nacquero le Olimpiadi e quale parte del patrimonio culturale dell'umanità è qui conservata. Prima di tutto qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Tutti i tesori di Olimpia sono ospitati al grande museo di Olimpia. Lì si trovano dei capolavori dell'arte antica, come sono i frontoni del Tempio di Zeus, la famosissima statua di Hermes di Prassitele, la vittoria di Paionios, una delle più belle statue filmate dell'antichità. Ad Olimpia si trova anche il Museo dei Giochi Olimpici dell'antichità, dal momento che sono nati fino alla fine del 393, ove che vengono proibiti. La crisi economica minaccia ora questo patrimonio ancor più degli incendi che nel 2007 arrivarono alle porte del Tempio di Zeus. Il personale del Ministero dei Beni Culturali lavora, direi, con l'anima per fare tutto questo lavoro. Tanti di noi lavorano dalla mattina fino alla sera senza pensare alla fatica oppure il fatto che hanno tagliato gli stipendi e tutto questo. Non abbiamo tanti soldi per i nostri monumenti e i musei, però facciamo il nostro meglio per mantenerli, per restaurarli come possiamo meglio. Prima che la sacra torcia olimpica venga accesa, una domanda continua a rimbalzarci nella testa. L'Europa del futuro può rinunciare a tutto questo? Ecco la torcia olimpica, è stata accesa nel Tempio di Era, qui ad Olimpia, dove i giochi nacquero e dove i giochi continuano a nascere ogni volta che la fiaccola viene riaccesa. La luce ora brilla e si indirizza verso Londra, Londra 2012, dove quel braciere verrà acceso il 27 luglio per dare il via ai giochi olimpici londinesi. Mai come in questo istante Londra e Atene sono state vicine, mai come in questo istante la Grecia e la Gran Bretagna e il resto d'Europa sono forse lontane proprio a causa della crisi economica che colpisce il paese greco. E non a caso è stato questo uno dei temi forti dei discorsi pronunciati qui nello stadio di Olimpia. Speriamo che la luce olimpica permetta, anche con i valori dello sport, con la forza dello sport, con i simboli dell'Olimpiadi, permetta alla Grecia di trovare la forza e le risorse e l'orgoglio per uscire da questo momento difficile. Da Olimpia si accende una luce che brillerà non solo per Olimpia, non solo per la Grecia, non solo per la Gran Bretagna, ma per il mondo intero nel cammino verso i giochi.